Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza dal 1977, libera da padroni e pubblicità, la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Ognuno di voi può contribuire a farla vivere, ad esempio sottoscrivendo sul numero di conto corrente postale 61804001 da intestare a Radio Onda Rossa, via De Volci 56 00185 Roma, oppure sul sito della radio, che è ondarossa.info, sulla homepage c'è l'opzione sostieni per la modalità PayPal. Diamo inizio al cinema su Radio Onda Rossa con Visionari come ogni giovedì. Le informazioni sulla scaletta di oggi sono disponibili sul sito alla voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Siamo in diretta ma anche in streaming dal sito della radio, sempre sulla homepage c'è l'opzione ascolta la diretta per ascoltare appunto in streaming. Parliamo adesso di un festival, ne parliamo con Carla Ottoni, che è co-direttrice. Il festival si chiama Caravan, il sorriso del cinema migrante, e si svolge a Roma dal 26 al 30 novembre. Carla, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie di avermi invitata. Non conoscevo l'esistenza di questo festival, raccontacelo un po'. Bene, allora ecco, questa è l'occasione giusta per conoscerlo, perché dopo 2 anni di attività noi siamo attivi a Torpignattara dal 2012 e rivendichiamo l'appartenenza proprio al quartiere, perché il nostro festival si nutre proprio della linfa vitale di Torpignattara, che noi consideriamo un quartiere pieno di ricchezze e di risorse nascoste, che con questo progetto invece vogliamo portare in luce e rivelarle. Sì. Caravan è un festival dedicato alle commedie, quindi l'edizione che si svolge ora dal 26 al 30 novembre sarà un vero e proprio viaggio ai confini del mondo per ribaltare dei luoghi comuni, degli stereotipi sia sul genere della commedia, che divertendo può trattare secondo noi anche dei temi molto importanti e centrali, no, dei nostri giorni, e poi anche su alcuni paesi che in genere vengono visti appunto sempre attraverso degli stereotipi. Quindi noi faremo una carrellata di delle migliori commedie dalla Cina, Brasile, Costa d'Avorio, Bangladesh, Ruanda. Sarà un'esplosione di colori, sono cinematografie molto, molto vitali, delle commedie anche graffianti che non distolgono lo sguardo da temi importanti, ma anzi con leggerezza di tocco ci richiamano alla partecipazione, all'impegno. Quante sono, Carla, le opere che presenterete? Noi presentiamo 8 film, sì, di cui più di qualcuno è in anteprima. E alcuni film sono anche accompagnati dagli autori. Sì, anche più che altro da performance musicali, perché noi siamo un festival molto piccolo e in gran parte autoprodotto, e anzi viviamo anche grazie al sostegno del quartiere e delle tante associazioni che animano la vita culturale di Torpignattara. Sì. E quindi ecco, a far venire gli ospiti, i registi da fuori, dall'estero non ce l'abbiamo fatta, però abbiamo molti musicisti, molte parentesi musicali interessanti che accompagnano i film. E giovedì 27 abbiamo un incontro tra il coordinamento di Cantiere Impero, che è il laboratorio di progettazione partecipata che da oltre 3 anni sta portando avanti un movimento, una campagna molto importante per riaprire l'unico cinema di Torpignattara, al Cinema Impero, che è chiuso da oltre 30 anni. Sì. E quindi ci saranno loro insieme ai ragazzi del Cinema America Occupato per parlare di cinema chiusi, che da fantasmi urbani possono diventare poli culturali importanti per la città, per il territorio di riferimento. Quindi l'incontro sarà giovedì 27 alle 18:30. Benissimo. Carla, ti chiedo a questo punto quali sono i riferimenti per la programmazione in internet, dove si può cercare? Allora, tutto il programma è sul nostro sito caravanfest.it, abbiamo anche una pagina Facebook, mettendo Caravan Fest ci trovate, e per qualsiasi informazione si può scrivere un'email a info@caravanfest.it. Le giornate, per esempio, una giornata tipo com'è strutturata per gli orari e gli eventi? Guarda, gli eventi saranno tutti nel pomeriggio, okay. A partire appunto dal tardo pomeriggio. Mercoledì inauguriamo con un'opera del Bangladesh molto bella sulla tradizione musicale del Bangladesh, che sarà accompagnata dalle donne della numerosa comunità del Bangladesh che c'è a Torpignattara, con una performance di danze, musiche e reading di poesie. E poi da giovedì si parte con, appunto, giovedì c'è il pomeriggio l'incontro e la sera il film. Il venerdì, il sabato e la domenica c'è un film al pomeriggio e uno la sera, con i concertini, diciamo, che saranno verso le 8:30 di sera, sempre tutte le sere. Benissimo. Carla, io ti ringrazio, un grazie, abbraccio e un in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo. A presto. Seguimento. Ciao. ciao Carla. Carla Ottani, co-direttrice del Festival Caravan, il sorriso del cinema migrante, terza edizione, qui a Roma, quartiere Torpignattara, dal 26 al 30 novembre. In collegamento con Shivani Lucky di Hansa Production per parlare del film Finding Happiness, Vivere la felicità, in uscita in sala oggi giovedì 20 novembre. Shivani, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, molto. Allora, raccontaci un po' di cosa si parla, cos'è questo film? Questo film è proprio una visione che viene vissuto da centinaia di persone in una comunità spirituale che ha la sede prima in California e ormai in tutto il mondo, anche qui in Italia. E sono gente che si sono venuti insieme per vivere una vita di servizio, di felicità, di spiritualità e di condivisione con gli altri. Quindi il film proprio è basato su questo, e le persone nel film, quasi tutti, sono i propri residenti di queste comunità. Allora, la comunità principale del film è, se non sbaglio, è quella di Sacramento. No, è in California, ah, è in vicino a Sacramento. Vicino a Sacramento. Ma, sì. È proprio quello che... Esatto. Allora, ci sono degli elementi interessanti che mi interessavano rispetto a questa esperienza. Intanto sono un po' più di 80 abitazioni vissute in cui vivono tra le 200 e le 250 persone. Ma la cosa più interessante, gli aspetti più interessanti di questa comunità sono, ad esempio, la solidarietà reciproca che muove ogni singolo partecipante a questa esperienza. Il fatto che sia una comunità autogestita, perché poi fanno lavori di artigianato che poi vendono al di fuori, e autosufficiente, c'è anche un centro medico, insomma fanno una vita completamente auto-organizzata. Sì, è una vita di grande significato per ciascuno, e non soltanto per i residenti, ma sì, per loro che vanno lì per fare i programmi spirituali. È basato sul rispetto per se stesso, rispetto per l'ambiente, rispetto per gli altri, è un sintonia con, diciamo, il piano divino. Oh, tra l'altro, ecco, come dicevo dell'autogestione, ma anche l'ecosostenibilità di questa esperienza. Sì, e questo fa parte del rispetto per l'ambiente, perché sì, ci sono i pannelli solari, c'è l'acqua che viene dai nostri sorgenti, quindi è una vita proprio basata sulla condivisione e il rispetto. Oh, senti, volevo sapere anche, soprattutto per chi ci ascolta, io il film l'ho visto, Shivani, la storia, come è nata, raccontiamo a chi ci ascolta, come è nata questa comunità parecchi decenni fa. Sì, iniziava proprio prima nella mente di un grande maestro dello yoga, che era il primo di andare nell'Occidente, Paramahansa Yogananda. Lui è molto ben conosciuto perché il suo autobiografia di uno yogi è conosciuto in tutto il mondo. E lui aveva capito che era molto importante l'ambiente, che ha un'influenza molto forte sulla nostra mentalità, sul nostro stato di benessere. Quindi, al di là delle pratiche della meditazione, lui aveva ideato le comunità spirituali. E un suo discepolo, Walters, che è Swami Kriyananda, negli anni 60 iniziava la prima comunità. Io ci sono stata proprio dall'inizio, dal primo anno, 1969. Scusa se ti interrompo, ma se non sbaglio uno dei fondatori è stato anche il poeta Beat Allen Ginsberg. No, questo non è vero. Il primo proprietario è stato comprato insieme con quattro persone, okay. Ma ciascuno ha fatto la sua opera. Ok, però erano in quei anni, diciamo, erano gli anni 60, quando c'era un grande idealismo. No, erano gli anni del Flower Children e della guerra in Vietnam. Sì. Quindi un grande idealismo che è stato focalizzato da questo grande personaggio, Swami Kriyananda, in una comunità dove oggigiorno ce ne sono 9, dove migliaia di persone possono vivere. Nel film si vede anche la comunità in Italia che è vicino ad Assisi, se non sbaglio. Sì, è lì che vivo da 30 anni ormai. Senti, queste comunità sono in rete tra loro? Sì, sono collegati, ma ogni comunità è autonoma. Autonoma. Senti, per raccontare anche un po' quali sono le attività, chi ci ascolta, com'è la vita quotidiana in queste comunità? Ecco, la vita inizia con la pratica di meditazione presto la mattina. Chi vuole fare a casa lo fa, ma tanti della comunità vanno al Tempio della Luce e facciamo insieme. E lì passiamo un'ora e mezza. E poi c'è la colazione e ciascuno residente ha il suo lavoro. Può essere un lavoro di servire gli ospiti che vengono o nell'orto biologico oppure nella scuola dove ci sono 23 alunni oppure lavoro privato che ciascuno può portare alla comunità. E poi di solito a pranzo vengono tutti quanti. Quindi è un momento. Si mangia tutti insieme? C'è una mensa? C'è una mensa. Ok. C'è una mensa specialmente per gli ospiti, ma ciascuno ha la sua casa e anche fa i pasti a casa. Quindi quando uno va alla mensa è perché vuole andare, è perché è comodo, perché si mangia bene e perché ci sono tutti gli altri amici. Ok. E poi di nuovo nel pomeriggio c'è un momento di raccoglimento, la meditazione. Ok, senti, per quest'uscita come sarà l'uscita in sala nei cinema per questo film? Allora, oggi è il premiere, è su invito in Cinema Barberini e da domani in poi per una settimana ci saranno 4 proiezioni ogni giorno. Però c'è una cosa molto particolare per la domenica, è un'esperienza di un'ora che chiamiamo Happiness Hour. Anziché Happy Hour, questa sarà Happiness Hour, che sarà alle 17 di domenica, dove ci saranno i canti, gli esercizi un po' per il fisico, un po' di nutrimento per la mente, un po' la pratica della meditazione. Sarà molto interattiva con il pubblico. Ok, e per avere maggiori informazioni ci sono dei riferimenti internet? Assolutamente di sì, molto semplice, che è ananda.it.italia, ananda.it, www, e lì c'è tutta l'informazione sulla comunità. E poi sul film c'è anche un sito sul film, findinghappinessmovie.com Italia. Shivani, io ti ringrazio e a risentirci presto. Grazie Federico, a presto. Ciao. Allora, Shivani Lakhi di Hansa Production per parlare del film Finding Happiness, Vivere la felicità, in uscita in sala oggi, giovedì 20 novembre. In collegamento con Vieri Brini, regista del documentario Rifiutati dalla sorte e dagli uomini, che se non sbaglio ha vinto l'Est Film Festival, vero Vieri? Sì, proprio così. Proprio così. Ho vinto l'Arco d'Argento come miglior documentario all'edizione di quest'anno. L'edizione di quest'anno. Un titolo piuttosto forte, Vieri. Sì, il titolo viene da una sorta di citazione da un libro di Pier Vittorio Tondelli, da Camere separate. In questo libro c'è un punto in cui il protagonista è a Londra e, passando in un quartiere, mette la testa dentro un locale dove vede una fila di persone tutte molto tristi e abbruttite davanti a una serie di macchinette che si giocano quei pochi spiccioli che hanno, e lui fa questa considerazione dicendo: erano tutte persone rifiutate dalla sorte e dagli uomini. Il titolo ci ha colpito, a me ed Emanuele, il co-regista, abbiamo deciso di utilizzarlo. Anche perché si parla di una patologia, per l'appunto. Sì, il documentario parla di gioco d'azzardo patologico, legato in questo caso soprattutto alla diffusione delle new slot, che in gergo vengono chiamate macchinette, nei bar in Italia negli ultimi anni. Si tratta di una vera e propria patologia, al pari della tossicodipendenza o dell'alcolismo. La patologia che però è molto drammatica, perché non prevede il consumo di una sostanza, ma è legata a un atteggiamento, a una pratica che è quella del gioco d'azzardo. Vieri, è una patologia sempre più diffusa. Sai darci anche delle cifre? Guarda, le cifre esatte no, anche perché il problema è da poco che viene trattato a livello sanitario dalle ASL e dal Sistema Sanitario Nazionale. Parliamo di pochi anni dal momento dell'introduzione nel decreto Balduzzi di questo tipo di patologia. Si stima che comunque ci sia un numero di patologici abbastanza elevato, che si può aggirare tra le 800.000 e il milione di persone. Che sono comunque parecchie, soprattutto per il fatto che sono pochi ancora quelli che si rivolgono al sistema nazionale, al sistema sanitario nazionale, per chiedere aiuto rispetto a questo tipo di problematiche. Questo è la cosa più grave. Quindi c'è un sommerso di persone afflitte da questa patologia, o che comunque si avvicinano a una zona critica rispetto a questo problema, che ancora non si rivolgono alla sanità pubblica e quindi non possono essere censite da questo punto di vista. Senti, mi chiamano a proposito del gioco patologico, e volevo chiederti anche da dove viene fuori l'esigenza di questo documentario, Vieri? Ma guarda, il documentario è nato in una maniera abbastanza banale, possiamo dire così, proprio da una semplice osservazione. Eravamo io ed Emanuele Policante, il co-regista del documentario, eravamo a Biella, la città da cui proveniamo, eravamo in un bar un pomeriggio, come tanti, a bere un caffè, e a un certo punto la nostra attenzione è stata catturata da un signore che avrà avuto una settantina d'anni, era un pensionato, che è entrato nel nostro stesso bar e si è piazzato davanti a quella che poi dopo abbiamo scoperto essere una new slot, e noi semplicemente lo vedevamo girato di spalle, fermo per una mezz'oretta buona, e ci siamo incuriositi, perché abbiamo detto: vabbè, proviamo a vedere cosa sta facendo. Ci avviciniamo e scopriamo che questa persona sta giocando a una slot machine, che noi fino a quel momento non avevamo valutato come quello che è, cioè una possibilità di giocare d'azzardo, ma ci sembrava un oggetto d'arredo del bar. E da lì abbiamo cominciato a farci un po' di domande, un po' seguente delle ricerche, e abbiamo scoperto un vero e proprio mondo legato a questa problematica. Da lì abbiamo steso un primo soggetto, fatto una richiesta alla Film Commission Torino Piemonte, abbiamo preso un piccolo contributo e siamo partiti. Ti dico, siamo partiti 4 anni fa su questo progetto. Quindi è un progetto di lunga durata, insomma. Sì, anche perché il tema è in continua evoluzione. Ogni giorno vengono fuori nuove possibilità di gioco, non solo legate alle slot machine, ma a tutta una serie di tipologie nuove, anche solo di gratta e vinci, di lotterie istantanee, e soprattutto ogni giorno la cronaca ci sorpassa a destra e a sinistra con nuovi casi da quelli più semplici a quelli più eclatanti di criminalità legata a questo problema. Oltre al fatto che nel nostro documentario abbiamo due testimonianze, quella di un ex giocatore che abbiamo fatto in anonimo e quella della moglie di un ex giocatore. Ti dico, per trovare questa signora che ha accettato di farsi vedere in volto nel nostro documentario abbiamo impiegato 8-9 mesi per riuscire a trovarla. Sì, questo sì, per darti l'idea della difficoltà. Sì, certo. Oltre al fatto che c'è tutto un discorso di tipo scientifico che abbiamo messo in campo per poter affrontare nella maniera più seria possibile questo problema, e ci siamo rivolti a Mauro Croce, che è uno psicologo di Verbania, che è uno dei principali esperti in Italia di questo problema. E quindi il continuo e costante confronto con lui nelle varie fasi di lavorazione ci ha portato a questo tipo di lungaggine. Sì, che sì, è, sì. Insomma. Senti Vieri, abbiamo anche la chiamata di una persona che era all'ascolto e per quanto riguarda dei dati su questo fenomeno. Ci sei? Sì, ecco qua. Eccoci. Allora, mi stavi dicendo una cosa al telefono. Sì, ecco, guarda, per la tipologia del lavoro che faccio, io c'è la persona... so benissimo che sono stati stimati in Italia all'incirca 1.200.000 giocatori patologici. Quindi 1.200.000 giocatori. Giocatori patologici, logicamente questa cosa abbraccia tutto lo spettro del gioco, da quello online a quello appunto delle macchinette VLT e quant'altro. E la cosa è sempre più diffusa e i metodi per arginarli sono davvero risibili. Ci sono stati dei provvedimenti, ad esempio per quello che so, lavorando in ambiti vicino alla 12ª Commissione Affari Sociali alla Camera, so che si sta portando avanti da più di un anno e mezzo questa proposta di legge sul gioco d'azzardo patologico, ma già vi dico che non verrà mai approvata, perché appunto l'impianto prevede l'associazione, la sincronizzazione della cura patologica attraverso meccanismi di affiancamento psicologico e quant'altro, come quelli legati alla tossicodipendenza, quindi da sostanza. Insomma, per farvela breve, tutto dovrebbe essere troppo costoso da una parte, poi che andrebbe a schiacciare i piedi a quelle che sono le grandissime lobby, quindi anche da questo punto di vista diciamo quello che è stato il mega regalo dei 98 miliardi di euro dati come regalo appunto a queste grandissime società che gestiscono il gioco d'azzardo, che poi a livello diretto e indiretto vanno a foraggiare quello che è il sistema delle fondazioni, che poi sono riconducibili ai partiti. Ecco, solo questo volevo aggiungere, non volevo essere più né più dettagliato né più questo. Però ti ringrazio perché anche il tuo intervento è piuttosto illuminante. Ti ringrazio, un abbraccio, buon lavoro, ciao. Eccoci Vieri, non so se hai sentito anche l'altra telefonata. No, purtroppo mi risultava muta, quindi non ho sentito. Ah, ok. Praticamente ci ha detto che si parla di 1.200.000 persone, c'è una proposta di legge che da un anno e mezzo si sta cercando di rendere effettiva, ma ci sono molti ostacoli, dai costi alle lobby che gestiscono questo ambito. Sì, il problema è proprio di questo tipo qui, nel senso che entrambi gli schieramenti non sono mai riusciti, per quanto siano venute fuori leggi, decreti e proclami da veramente sia da destra che da sinistra sul problema del gioco, ma effettivamente poi all'arrivo poi in aula, al momento di votare, stranamente ogni volta c'è qualche piccola modifica che viene fatta nelle varie commissioni, per cui i testi di legge sono poi nei tre quarti dei casi svuotati completamente della loro possibile efficacia. Ma poi problema. Sì, poi la cosa che mi viene comunque in mente è che dalle slot machine arrivando fino alle più piccole lotterie i soldi, gli introiti per lo Stato sono anche quelli interessi. Sì, la cosa assurda però è che lo Stato da poi spende parte, di più per sempre certo. meno su questi sui giochi, e dall'altra, cioè rispetto a quelli che sono il volume di giochi, si parla di miliardi di euro, ma decine di miliardi di euro di fatturato, lo Stato alla fine arriva a trarne un neanche 10%, quindi insomma a fronte poi soprattutto di quella che poi è la problematica sociale legata certo. a sociale ed economica, nel senso sociale perché da una parte tutti questi giocatori patologici, loro e altri che si rivolgono al sistema sanitario nazionale, pesano sul sistema sanitario nazionale, e soprattutto dal punto di vista economico, perché tutto quello che viene investito in gioco d'azzardo legalizzato viene distratto da altri tipi di consumi, che sono i consumi primari, anche solo nel comparto alimentare, nell'abbigliamento, nell'intrattenimento. Quindi questo a livello economico, soprattutto in un momento di crisi come questo, si fa sentire e si farà sentire sempre di più. Sì, sì, sì. Senti, quando una nazione ha un volume di 80 miliardi spesi in gioco, poi quegli 80 miliardi lì poi non sono investiti nel comprare il pane. E poi si vede. Ieri, considerato che avete avuto come referente anche uno psicologo, volevo sapere se ne esce da questa patologia, che quali sono le percentuali? Ma anche da questo punto di vista qui i dati sono incerti e difficili anche da reperire, perché comunque il problema di base è che sono ancora poche le persone in Italia che si rivolgono al sistema sanitario nazionale per farsi aiutare, e ancora sono pochissimi quelli che comprendono la portata di questa problematica. In tanti ancora ragionano nel nostro paese in questa maniera, pensano che il gioco d'azzardo patologico non sia una patologia, come dice la definizione, ma sia un vizio, una mania, come potrebbe essere fumare o altri tipi di, appunto, di vizi. Molte volte questo problema nelle famiglie italiane porta a sottovalutare la questione e soprattutto cercare di non farsi aiutare, ma di risolvere questo tipo di problematica in casa. Solo che se per quello che potrebbe essere una patologia simile, che può essere la tossicodipendenza, se in quel caso comunque per poter recuperare una dose il tossicodipendente deve comunque uscire di casa e andare in posti prestabiliti, diciamo, in questo caso è difficilissimo riuscire a controllare un giocatore patologico, molto di più oggi anche per il fatto che l'online, il gioco d'azzardo online legalizzato, sta esplodendo. È difficile riuscire a fare come si faceva una volta, dove uno poteva essere interdetto dall'ingresso nelle sale da gioco, nei quattro casinò in Italia. Adesso come si fa a interdire una persona dal bar sotto casa, dall'usare uno smartphone per collegarsi a un sito di scommesse, sì, dalla tabaccheria, o addirittura come abbiamo saputo esserci a Pavia, ci sono addirittura delle erboristerie che al loro interno hanno delle news lot. Come si fa? Con questa diffusione capillare è veramente difficile arginare un problema come questo. Vieri, il ruolo della criminalità organizzata? Allora, il ruolo della criminalità organizzata è presente, è forte ed è stato accertato e studiato in maniera molto interessante e puntuale da Libera, attraverso il loro dossier che si chiama Azzardopoli, che consiglio ai tuoi ascoltatori e a tutti di scaricare dal loro sito e di leggere. Noi abbiamo deciso, io e Emanuele, di non affrontarlo come tema all'interno del documentario, per quanto abbiamo comunque la testimonianza e l'intervento del vicequestore qua di Torino, più che altro perché a noi interessava ragionare sull'impatto sociale del gioco, nella vita quotidiana, partendo da un discorso, diciamo, di microcosmo, per poi arrivare a ragionare sul macro sistema Italia. Però il problema c'è, sì, è evidente, anche solo per il fatto che tra i 10 concessionari principali, di 6-7 non si conosce comunque la ragione sociale definita, oltre a evidenti casi già documentati di collusioni con Camorra e 'Ndrangheta da parte di alcuni distributori. Tornando alla psicologia, Vieri, come funziona il meccanismo della dipendenza? Ma il meccanismo della dipendenza funziona come per altre tipologie di dipendenza, come la tossicodipendenza, nel senso che il giocatore entra in una sorta di loop nel quale non riesce più a uscire, che è indotto anche dalla tipologia di gioco. Mi riferisco alle slot. Io arrivo davanti a questo tipo di macchinario, inserisco la mia moneta da un euro e sono appena la metto, parte la mia partita. Conta che una partita dura 4 secondi. Prova a immaginare in quattro, cioè quanto uno si riesce a giocare anche solo in un quarto d'ora, 20 minuti. Sì. In più si entra in un meccanismo indotto dalle tipologie particolari di musiche che sono associate alla partita e le tipologie di immagini che vengono utilizzate, luci e colori, che portano a creare una sorta di alienazione immediata, perché anche dal punto di vista della compulsività la partita è rapidissima. Per giocare basta inserire una moneta e poi schiacciare dei tasti ed è tutto rapido e veramente immersivo. E da lì poi si cade nella patologia e quindi si inizia a non riuscire più a controllare i volumi di gioco, si comincia a entrare in una sorta di meccanismo che ti incatena la macchina, per cui comincia a pensare di dire: va bene, io giocatore gioco per rifarmi di quello che ho perso e inseguo una vincita che non arriva mai. Comincio a legarmi a tutta una serie di convinzioni e ragionamenti legati al pensiero magico che tutti noi abbiamo, solo che legato a questo tipo di macchine che lavorano veramente sulla rapidità e sulla compulsività, sono devastanti. E da lì poi tutto quello che ne deriva, dal come piccoli furti, si comincia a mentire in casa, si comincia veramente a prosciugare i conti, a chiedere prestiti, e poi nei casi più drammatici addirittura a legarsi all'usura. Usura che nel caso dei giocatori patologici assume una connotazione ancora più drammatica. Questo perché l'usuraio per il giocatore patologico diventa la persona che dà la possibilità al giocatore di continuare a giocare, e quindi in tantissimi casi accertati il patologico non denuncia il suo usuraio perché è quello che gli permette di continuare a sostanzialmente a drogarsi. E ti lascio immaginare che tipologia di situazione si va a creare. Oltre al Servizio Sanitario Nazionale, volevo chiederti se c'è un associazionismo che opera in qualche modo. Sì, ci sono diverse realtà in Italia che ragionano sul problema, varie associazioni e consorzi come Conagga, come Alea, e poi c'è una, in primis sicuramente vi è tutta la rete delle associazioni di auto mutuo aiuto, come i giocatori anonimi e il suo corrispettivo per i parenti e familiari, che si chiamano GAM Anon, che sono nei gruppi di auto mutuo aiuto per familiari e parenti di giocatori patologici. Perché una cosa che non si pensa in prima battuta è che comunque sì, il giocatore ha un problema, però dietro a un giocatore c'è comunque una famiglia, ci sono degli affetti, c'è una rete sociale ampia che viene irrimediabilmente toccata e comunque danneggiata dall'atteggiamento del giocatore. Oltre a questi, dal punto di vista invece meramente informativo e di sensibilizzazione, vi è una grande attività anche partita dal basso, da quella che è la rete Slot Mob. La rete Slot Mob è partita da un'associazione di Roma che si chiama Economia e Felicità, che all'inizio avevano fatto attività di informazione, le prime legate alla banca etica e al consumo critico. E hanno organizzato questa serie di movimenti spontanei, di eventi spontanei che si chiamano Slot Mob, ovvero come dei veri e propri flash mob. Si va a premiare tutta quella serie di locali, bar, circoli e situazioni del genere che fanno la scelta di togliere le macchinette, togliere le ricevitorie. Quindi la rete Slot Mob cosa fa? Il bar che decide di togliere questi macchinari contatta la rete Slot Mob, e lo Slot Mob organizza con delle associazioni sul territorio una giornata sostanzialmente di festa in questo locale, dove si fa informazione e sensibilizzazione e al contempo si premia l'esercente che ha fatto questa scelta coraggiosa è con una giornata in cui si fa conoscere la sua attività e in più si va a consumare nel suo locale, premiandolo con un gesto tanto semplice quanto quello anche solo di decidere di bersi un caffè in un locale dove non si gioca d'azzardo. Vieri, per saperne di più, è prevista intanto una forma distributiva o continuate il vostro iter festivaliero? Allora, al momento noi proseguiamo con le proiezioni che stiamo gestendo in maniera autonoma io ed Emanuele. Ieri sera siamo stati a Tortona, in provincia di Alessandria, e questa sera saremo ad Alba, al Cinema Moretti, in provincia di Cuneo. Inoltre abbiamo già delle date fino a gennaio del 2015, tra cui parteciperemo tra 2 settimane a una rassegna che si chiama Cinetica, organizzata dall'Associazione Museo del Cinema qua di Torino, che ragiona proprio sulla distribuzione dei documentari indipendenti. Una rassegna che prevede la prima settimana di ogni mese la proiezione in 3 cinema diversi dello stesso documentario con l'incontro col pubblico. Stiamo chiudendo in questi giorni una partnership con un distributore per provare appunto a fare una vendita del documentario ai network nazionali e internazionali e per successivo giro distributivo. Invito comunque i tuoi ascoltatori, se sono interessati, a guardare sul sito ufficiale del progetto, che è rifiutati dalla sorte dagli uomini.com, e sulla corrispettiva pagina Facebook del progetto. Benissimo. Lì si trovano tutte le informazioni, il trailer, il press book e soprattutto la lista aggiornata di tutte le proiezioni. Vieri, è stato un piacere, io ti ringrazio, ci sentiamo presto. Grazie, io ringrazio te e i tuoi ascoltatori, è stato piacevole fare questa chiacchierata. Un abbraccio, ciao. Grazie. Vieri Brini, regista del documentario Rifiutati dalla sorte e dagli uomini. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema ogni giovedì dalle 14 alle 15. Ecco con noi Claudio Giapponesi, produttore del documentario Vacanze al mare di Ermanno Cavazzoni. Ci sei, Claudio? Sì, ci sono. Benvenuto a Visionari. Ciao, su Radio Onda Rossa. Grazie. Allora, con te per parlare di questo lavoro interessante sia dal punto di vista sociologico che antropologico, diciamo così. Sì, diciamo che Ermanno si è approcciato a questo lavoro attraverso un lavoro precedente che era Formato Ridotto è un lavoro che abbiamo prodotto nel 2012 con 5 scrittori emiliano-romagnoli che hanno rielaborato i materiali di On Movies, l'archivio nazionale dei film di famiglia. In quell'occasione Ermanno si è immerso negli On Movies e si è innamorato subito delle ferie degli italiani, delle vacanze al mare. E dopo il piccolo lavoro da 10 minuti fatto per Formato Ridotto, sempre sul mare ma d'inverno, ha deciso di indagare a fondo l'estate al mare degli italiani. Claudio, il fenomeno delle vacanze al mare è esploso in maniera massiva nel secolo scorso, nel Novecento. Sì, Cavazzoni appunto dice proprio questo nel film, in maniera ironica ovviamente e divertita, che gli italiani hanno cominciato come tutti ad andare al mare nel Novecento, a vedere il mare come un momento di svago e di divertimento, mentre invece prima il mare era un mare a volte anche nemico, cattivo, insomma, poteva anche far male. La spiaggia, certo, il solleone non era certo una cosa dove stare, insomma, si veniva a stare all'ombra, magari in montagna o nel bosco in piena estate, non sotto il sole cocente. Senti, com'è nato questo fenomeno della vacanza al mare? Ma in realtà, diciamo, bisogna capire se ci interessa descriverlo in termini generali storici o nel modo in cui lo descrive Cavazzoni. Cavazzoni intezza liberamente queste immagini, le immagini di On Movies le vede come se fossero gli ultimi reperti lasciati dall'umanità, senza nient'altro intorno, senza contesto, e da questi reperti lui ricostruisce una sua storia della vacanza al mare. E un po' la conclusione è che il mare sia un luogo dove si va per riprodursi, come certe specie animali vanno in migrano, vanno magari in certi luoghi particolari per accoppiarsi, l'uomo va al mare. Senti, che ecco, stavi parlando del tipo di lavoro che ha fatto di montaggio Ermanno. Su una mole ha lavorato, su una mole notevole di materiale. Sì, l'Archivio Nazionale dei Film di Famiglia, Movies, conserva diverse decine di migliaia di ore di materiali. In molti fondi filmici, in molte collezioni, diciamo, private, c'è ovviamente la vacanza al mare, perché è un elemento che ricorre un po' in tutte le famiglie che si sono filmate a partire dagli anni 20 fino agli anni 80 del secolo scorso. E dunque sì, il materiale era tantissimo da cui è partito, non saprei quantificarlo esattamente. Senti, sicuramente il fenomeno è cominciato con, insomma, il lavoro salariato e quindi relativo momenti di tempo libero che gli operai o i lavoratori si ritagliavano e insomma poi c'è stato un po' un effetto catena rispetto sì. a chi godeva il mare e, insomma, rispetto anche a tutto il periodo precedente in cui non era vissuto così, ma visto come forma di vacanza, poi è diventato un'emulazione effetto domino, insomma. Sì, diciamo che al mare si andava anche prima, però sicuramente il fenomeno di massa parte dal dopoguerra, sì. Anche se molte credenze, molte cose si danno per scontate rispetto al periodo, per esempio, fascista e al come si viveva il mare in quegli anni, sono un po' sfatate dalle immagini che abbiamo. Non so, faccio un esempio, negli archivi del Luce, se si va a cercare le immagini delle persone al mare nel ventennio, sono tutte coperte, vestite, e si pensa che fosse questa la normalità. In realtà nei nostri archivi ci sono dei bikini degli anni 30 che e molti esperti di costume sostengono, insomma, che il bikini sia il due pezzi sia nato negli anni 40-50, ecco, invece c'era già, ecco, anche sulle nostre spiagge. Quindi la censura del fascismo era attiva anche sulla spiaggia. Un po', sì, un sì. po'. Senti Claudio, mi dicevi di questa chiave di lettura sul mare come luogo della riproduzione dell'uomo. Come è nata quest'idea? Non so, forse anche da qualche Ermanno, vedendo questi materiali, ha trovato anche materiali di persone, appunto, che si filmavano con la propria compagna, che si filmavano alla ricerca magari di gruppi di giovani, alla ricerca di un'avventura, di una ragazza, eccetera. E dunque da qui poi ha ricostruito un po' anche tutto quell'immaginario che è presente nel comune, insomma, dei vitelloni riminesi. L'ha ricostruito in una chiave più, diciamo, antropologica, immaginando questo luogo, la riviera, un po' come un luogo dove l'uomo va e cerca di accoppiarsi. Nel caso, per esempio, del personaggio immaginario che Cavazzoni racconta nel film, in realtà poi trova frustrazione perché non riesce a in nessun modo a trovare, a accoppiarsi, a trovare una sua compagna. Senti, immagino che la qualità e la tipologia di immagini sia molto differente. Sì, i materiali sono vanno dagli anni 20 agli anni 80, ci sono materiali più autoriali anche fra gli amatori, anche tra i cinematori che appunto hanno realizzato anche piccoli film sul tema. Oppure si arriva fino al padre di famiglia che firma la propria famiglia al mare, l'immagine un po' più che ci aspettiamo cercando gli movies, ma c'è un po' di tutto. Quindi 60 anni di storia filmata, in pratica. Esatto, senti, è stato presentato la scorsa edizione, quella dell'anno scorso, del Festival di Roma. Poi che tipo di vita ha avuto questo documentario? Il film ha un po' girato in quest'estate nelle arene estive, ha avuto qualche diffusione in alcuni festival, però purtroppo non ha avuto ancora una vera diffusione, insomma, sono sono pochi ancora ad averlo visto. È previsto... Stiamo cercando di realizzare un'edizione DVD e di fare in qualche modo vedere il lavoro, ma non è semplice, perché è un punto molto particolare, non è un documentario, non è un film di funzione, è un qualcosa non fiction, diciamo, chiamiamola così. Sì, sì. Senti Claudio, con te parliamo anche di qualcosa di più recente, perché al Festival di Torino la prossima settimana arriverà un altro vostro lavoro. Sì, esatto, presentiamo Una nobile rivoluzione, che è un film di Simone Cangerosi su Marcella Di Folco, che sicuramente avremo modo di riparlarne anche con loro, però intanto anticipiamo qualcosa. Marcella è stata uno dei più importanti personaggi e leader del movimento LGBT italiano, ha rappresentato, insomma, per molti anni il punto di riferimento dell'area transessuale, per le lotte per i diritti civili, ma ha avuto anche un'altra vita precedente, quando prima del suo cambio di sesso, in cui è stata prima il portiere, il buttafuori del Piper, e poi anche caratterista del cinema italiano. Infatti compare in molti film di Fellini, tra cui per esempio Marcord, dove in persona il principe Umberto nella scena quella della gradisca della prostituta che appunto si concede al principe. Dunque un personaggio poliedrico molto forte e interessante, lo raccontiamo in questo film. Senti, intanto luoghi vostri per avere maggiori informazioni in rete, ce ne puoi dare qualcuno? Sì, potete andare sul sito della nostra società di produzione, che è www.kine.it, e lì si trovano tutte le nostre produzioni, tutti i nostri lavori, oppure anche per i progetti, insomma, anche legati all'Archivio Nazionale di Cine Famiglia o Movies, come per esempio Vacanze al Mare, anche sul sito onmovies.it. Senti, in chiusura spendiamo anche due parole rispetto all'attività di Kine. Siamo una società di produzione che è nata pochi anni fa, in realtà siamo attivi sulla produzione del documentario dal 2009. Abbiamo realizzato già diversi lavori, l'anno scorso eravamo sempre a Torino, ma nel concorso principale con Il treno va a Mosca, un altro che abbiamo ospitato, sì, sì. Come? Abbiamo ospitato in trasmissione. Esatto, sì. Infatti. E poi appunto, come dicevo, la prima produzione è stata nel 2012, formato ridotto, un progetto fatto con la Regione Emilia Romagna, e poi sempre nel 2012 abbiamo realizzato Anita di Luca Maggi. Anche quello era in concorso a Torino, nei documentari quell'anno, e insomma ci stiamo muovendo su vari fronti, abbiamo diverse produzioni e coproduzioni anche internazionali in campo e andiamo avanti. Anche Anita, sì, mi sembra, sì, sì, ne abbiamo parlato. Luca mi sa che è passato anche da voi. Sì, esatto. Bene, quindi le nostre strade si intrecciano in più punti e avremo modo sicuramente di riparlare di questo lavoro di Torino. Nel frattempo io ti abbraccio e a presto. Grazie, ciao, a presto. Ciao, grazie. Claudio. Ciao. Claudio Giapponesi, produttore del documentario Vacanze al Mare. Torniamo a parlare di distribuzione indipendente e lo facciamo con Giovanni Costantino, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ben ritrovati a voi, grazie. Allora, un film che è in uscita oggi, giovedì 20 novembre, Sarà un paese. Cos'è, Giovanni, questo film? È una poesia, ma guarda, è veramente una poesia. Nicola Campiotti, io sono contento che in qualche maniera noi siamo diventati un po' il punto di riferimento dell'indipendenza italiana, e tra tante cose non belle che ci arrivano, a volte capitano, ecco, degli incontri veramente belli, e Sarà un paese è un incontro entusiasmante dal punto di vista tutto di un bambino. Devo dire, Nicola Campiotti ha una poetica veramente originale, fabulistica, accattivante, e devo dire che ci porta in questo percorso, in questa visione italiana, con un punto di vista completamente inaspettato, ingenuo, ma non così ingenuo, perché i bambini non sono ingenui, sono molto diretti, sono molto, che ti posso dire, senza peli sulla lingua. Per cui devo dire, questo bambino che è il protagonista del film, che è da premio Oscar, veramente una rivelazione, ci accompagna, ci porta per mano dentro le sue immagini, nei suoi occhi. E guarda, veramente Federico, un evento. Bene. Senti Giovanni, per questo progetto, per quanto ne sai, come ha avuto origine? Bah, guarda, io so che è stato un progetto abbastanza travagliato. Sergio Scapagnini, che è un produttore vecchio stampo, ci ha tenuto molto, ha voluto investire su quest'opera prima. Non facile, assolutamente. Guarda, credimi che mi sorprenderebbe meno fosse stato fatto in totale indipendenza, senza un produttore alle spalle. Devo dire, il fatto che ci sia alle spalle di questo un produttore mi ha sorpreso. Che ci fosse Sergio Scapagnini un po' meno, perché quando l'ho conosciuto ho capito che comunque sia lui è molto legato all'India, per cui ha anche lui dentro la sua vita, porta con sé un punto di vedere, un punto di vista diverso, alto e altro. Si è sposato assolutamente con Campiotti, ne ha capito il progetto, e credo che se oggi il film è quello che è anche molto grazie a Sergio Scapagnini. Nicola, so che hanno girato 3 anni per fare questo film, quindi tieni conto che avendo anche come protagonista un bambino di 10 anni, non è stato facile, perché comunque sia ovviamente bisogna organizzarsi affinché il bambino non sembra che sia cresciuto troppo perché tu capisci che tra gli 8 e gli 11 anni si cresce moltissimo, ed è nato così, attraverso, diciamo, il tentativo di Nicola Campiotti di trovare i fondi, i finanziamenti per fare questo film, e 3 anni in cui ha girato l'Italia a spasso con questo bambino, che è stato formidabile, perché ovviamente sai, è un piccolo film e dietro a ogni piccolo film ci sono grandi, enormi problemi, ecco. Per cui devo dire che portarsi dietro un bambino, riuscire a fargli superare tutta questa grande prova che comunque porta qualsiasi operazione di cinema indipendente, devo dire che è stata un'avventura sicuramente bella da raccontare, ma sono convinto che se dovessero riproporli, lo rifaresti? No, diciamo che i prossimi film voglio farli in maniera diversa, come spesso accade a tutti gli indipendenti. Per chi ci ascolta, come racconteresti in breve la trama? Ma guarda, la trama è che, guarda, è brutto raccontare la trama, è come dire, se tu mi dovessi raccontare, che so, l'infinito dei leopardi, come me lo racconteresti? E come te lo posso raccontare? Adesso non voglio dire che è l'infinito dei leopardi, però sicuramente, guarda, è suggestivo, quindi è suggestione, sogno, è un modo per fare i conti con la nostra Italia in maniera diversa, è un modo per vederla con occhi diversi, è un modo per ritornare a fare appello a qualcosa di più intimo, di più naturale, che è in noi. L'Italia vista, l'Italia di oggi vista con gli occhi di un bambino, cosa vede questo bambino? Quali sono i problemi, ma anche le prospettive positive di questo paese? Certo, è ovviamente non è una, diciamo che oggi parlare male dell'Italia si fa presto, certo, e per cui sarebbe stato fin troppo facile e anche demagogico, ecco, fare tutta una mappatura degli appunti negativi che quest'Italia ha. Invece qui ci sono, si ripercorre veramente l'Italia attraverso lo sguardo di questo bambino, attraverso gli appuntamenti che hanno in qualche maniera caratterizzato l'Italia negli ultimi 15 anni, sia sotto l'aspetto virtuoso, sia sotto l'aspetto assolutamente non virtuoso. Per cui niente, è questo, tutto attraverso un linguaggio che è assolutamente non ordinario, è tutto presentato in una maniera che non ti aspetti, per questo è così efficace. Italia attraversata da nord a sud, dalla periferia alla città, alla campagna, ai monti, e incontrando gente? Sì, incontrando gente, incontrando i protagonisti diretti oppure indiretti, comunque di esperienze che, come ti dicevo, hanno segnato il nostro paese, il nostro tempo, e stanno segnando tuttora il nostro tempo. Com'è stato l'incontro con questo film? Diciamo che Nicola si è presentato da noi e ci ha portato questo suo film, che lui continua a presentare come piccolo, ma non è piccolo assolutamente. E per noi è stato la scelta è stata immediata, sì, perché noi non abbiamo mai avuto un film per ragazzi, anche se questo qui ha il bollino come film per ragazzi, ma è quasi più un film per adulti che per ragazzi. E soprattutto per noi è portare un'opera che in qualche maniera chiude un percorso che abbiamo fatto quest'anno, che è un po' quello di dare voce a quella che è stata l'urgenza, quella che è l'urgenza degli artisti italiani, che quest'anno hanno avuto veramente proprio l'urgenza, per l'appunto, di portare sul grande schermo delle problematiche importantissime, quindi dalle nuove droghe alla tematica sempre comunque attuale del lavoro, alla cultura, sia attraverso la commedia sia attraverso il dramma. Questo qui non è né una commedia né un dramma, né un mockumentary o docufiction, che dir si voglia, ed è veramente un'esperienza. Per cui, diciamo, concludere comunque tutto questi appuntamenti che ci sono stati, da Il nome Satana, Spaghetti Story, Una domenica notte, Red Crocodile, arrivare a Sarà un paese, ci sembrava veramente la giusta chiusura, perché comunque Sarà un paese ha una visione assolutamente alla fine ottimistica, porta speranza, dà speranza, perché giustamente un bambino non può che avere speranza, giustamente leviamo la speranza ai bambini, basta, e la fine. Però devo dire che è assolutamente, è questo stato il percorso, questa è stata la scelta, e siamo molto molto molto molto contenti, anche perché UNICEF ne ha fatto proprio il suo evento clou per il 25esimo anniversario della firma della Carta dei diritti del bambino, per cui questa sera proprio alla prima al Barberini a Roma l'UNICEF con il presidente faranno sicuramente un discorso, e siamo lieti, ecco, di riuscire a portare un'opera di un giovane italiano così in alto. E devo dire che, guarda Federico, questo anche grazie a voi, anche grazie ai visionari, grazie a tutta una realtà culturale a livello di giornali, a livello di teatro, a livello di cinema, si sta muovendo qualcosa in Italia. Io sono molto contento, perché operazioni del genere fino a qualche tempo fa non potevano neanche essere immaginate. Oggi devo dire che te Federico e tanti altri, grazie a tanti, veramente al lavoro di tanti, devo dire la nostra generazione 30-40 anni sta facendo veramente un salto che la generazione tra i 40 e i 50, anche 60, non è riuscita a fare, e sono molto contento, perché non era assolutamente scontato. Ecco, in parte già hai risposto alla domanda che mi veniva in mente, Giovanni. Questo film, il titolo di questo film Sarà un paese, ecco, e qual è il paese di questo film? Il paese di questo film è un'Italia che può esserci. Il paese di questo film siamo noi due, Federico. Federico, tu con quanta passione lavoro nei tuoi colleghi? E parliamoci chiaramente, i visionari cos'è? Un programma da blockbusteroni? No. È un programma? No. Noi stiamo lavorando per quella che è il nostro fuoco, la nostra passione. Purtroppo in Italia fino ancora oggi le persone stanno dove stanno la maggior parte per caso. E noi, grazie a Dio e grazie al cielo, dopo la generazione del 68, dopo generazione veramente di nulla, grazie a Dio, evidentemente forse perché in noi campeggia la memoria o qualche seme depositato dai nostri padri di quello che fu l'Italia, però in qualche maniera vuoi la malinconia, vuoi questi semi che hanno germogliato in noi, però stiamo costruendo qualche cosa che sono contento esca un'opera come Sarà un paese, perché evidentemente è anche merito a persone come Arco Pinto, a persone, ce ne sono tanti, guarda, persone che comunque hanno seminato, non hanno anche in tempi bui come questi, continuano a seminare, e grazie al cielo quella che viene raccontata di Sarà un paese è un'Italia che veramente è possibile. Non bisogna mollare, e bisognerebbe, ecco, che casi come quello dell'Eternit di ieri ecco, come quello di Cucchi, ecco, non ci siano più per poter sperare veramente in meglio, però purtroppo esiste anche questo, non bisogna mollare. Giovanni, chiudiamo con l'esperienza di distribuzione indipendente, qualche parola per chi ci ascolta, raccontiamo in breve qual è il suo percorso. Ma sì, la distribuzione indipendente nasce con la grande voglia e la coscienza che in Italia si fa ancora un grande cinema, che purtroppo non ha accesso alle grandi distribuzioni, ma paradossalmente ha accesso poi a tutto un mercato internazionale, festivaliero e commerciale di grande importanza, e che è un paradosso, perché il nostro cinema istituzionale più delle volte non sbarca fuori dalle Alpi, invece il cinema indipendente lo fa, quindi anche il cinema horror, le commedie, tutto quello che noi non vediamo in Italia ha successo comunque all'estero. Distribuzione indipendente è nata così, proprio partendo dal basso, con un piccolo circuito di cineclub e cinecircoli i primi 2 anni, e quest'anno, dopo 2 anni comunque di successi, di opere che sono riuscite comunque ad avere lo stesso successo mediatico delle grandi aziende, dei grandi filmoni americani e non solo, quest'anno abbiamo unito circuito classico a circuito off, e devo dire che da Spaghetti Story ai Fratelli Karamazov, Song of Silence, Carta Bianca, lo stesso Sarà un Paese, ecco, questa qui è la dimostrazione che ci sta, come in tutti gli altri settori, ci sta un sistema che chiude le porte semplicemente, ma non è che non esistano i talenti nella medicina, nella letteratura, nel cinema, nel teatro, esistono, e come? Non gli viene data una vetrina, ma quando gli viene data, come è stato il caso di distribuzione indipendente, certo abbiamo dovuto lavorare con i gomiti molto alti e fare a spallate, però dai a resistere. Ecco, quest'anno abbiamo presentato 8 film, di cui la metà, una buona metà è stato comunque un evento al cinema, e siamo contenti perché questo ha portato nuova linfa, nuova fiducia, soprattutto negli esercenti, che sono sempre un po' lo scoglio più difficile da scavalcare, perché temono sempre di puntare su film che non abbiano grandi nomi, che non abbiano grandi titoli, che non siano americani. E devo dire che invece sempre di più stanno trovando coraggio, stanno vedendo che le nuove società come distribuzione indipendente, cineclub internazionali o Cineama, puntando sulle nuove tecnologie, su nuovi sistemi di marketing, riescono a fare quanto riesce a fare una multinazionale, una grande distribuzione, con molti, molti, molti più soldi. E non è un caso che noi registriamo comunque all'anno un 20% in più di spettatori, contro invece una percentuale che di anno in anno si fa sempre più negativa per le grandi sale. Per cui siamo, Federico, questo è il nostro percorso, e il prossimo anno, devo dire, Federico, avremo delle sorprese meravigliose, guarda. Avremo modo sicuramente di parlarne, certo. Assolutamente, assolutamente, Federico. Un abbraccio. A te. Ciao, buon Giovanni. Lavoro, ciao a tutti, a tutta la redazione, ciao. Giovanni Costantino, di distribuzione indipendente, sul film Sarà un Paese, in uscita in sala oggi, giovedì 20 novembre. Con noi Fabio Gianotti, regista del documentario Cronaca di una vita semplice. Benvenuto Fabio a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti. Allora, raccontaci un po' di questo lavoro. Questo lavoro è nato principalmente perché volevo fare un film sull'abbandono della montagna, e avevo una piccola casa in provincia di Cuneo, in montagna. Ho conosciuto questo personaggio che si chiama Gianfranco, che vive da solo in questa frazione isolatissima, però per vivere deve contestualmente lavorare in fabbrica, e mi affascinava questo doppio ruolo di lavoratore, no? Cioè, da solo mantiene una borgata con numerosi animali e coltiva anche, poi per vivere, data l'assenza di comunità, è costretto a lavorare in fabbrica, e questa mia vicinanza e conoscenza mi ha permesso di poterlo filmare per 2 anni di fila. Quindi senza questo accesso privilegiato, diciamo che sarebbe stato impossibile farlo. Senti, è lungo il tragitto da pendolare? Ma no, sono una mezz'oretta di macchina andare e una mezz'oretta a tornare, ecco, più o meno, però contando che nel Cuneese nevica in tutto l'inverno con svariati metri di neve, inizia a diventare un po' difficile poi lo spostamento. Mm-hmm. Infatti qualche volta lui si ferma a Borgo San Dalmazzo, che è il paesino sotto dove è una piccola casa, perché per sopravvivenza, almeno nei mesi di gennaio, si ferma lì. Mm-hmm. Senti, com'è la sua prospettiva rispetto a questa vita in isolamento nel tempo non lavorativo? Il suo sogno sarebbe quello di poter vivere del lavoro della terra, insomma. Mm-hmm. Però giustamente non è ai mezzi, saremmo noi e la politica a doverlo, diciamo, fornire di mezzi perché possa sussistere per lui una vita in montagna. Da solo lui non può riuscire, però si facessero delle politiche di ripopolamento della montagna, cioè l'unica via è ripopolarla la montagna, perché comunque lui da solo cioè è impossibile che faccia qualcosa di produttivamente efficace, cioè che gli dia il soldo, ecco. Senti, com'è stato il contatto con questa persona, al seguire il suo quotidiano? Ecco, no, il contatto è... Io ho una casa, la frazione attaccata, quindi negli anni l'ho conosciuto. Non siamo diventati amici, adesso sì, siamo diventati amici dopo il film. Però lui, io gli ho spiegato che poi la mia idea, oltre a fare un film sull'abbandono della montagna, era, io volevo fare anche un film sul saper fare, cosa che noi che viviamo in un ambiente urbano l'abbiamo perso totalmente, cioè saper fare manualmente le cose. Chi ha visto il film o aveva l'opportunità di vedere si accorge di quante cose lui è in grado di fare, no? Da pulire i boschi, tagliare gli alberi, fare castagne, poi alleva polli, conigli, insomma. Quindi lui è stato molto contento di mostrarsi e di mostrare il suo lavoro, diciamo, e questo l'ha convinto a partecipare al film, che è durato poi circa 2 anni come produzione. Ma ha tentato o ha pensato comunque a dar vita a una piccola comunità? Non ci ha pensato, perché il posto in cui abita è veramente, cioè, tendenzialmente non è molto isolato, cioè è molto isolato, però è a mezz'ora di macchina da Cuneo, che comunque è una cittadina, ecco. Però il problema è strutturale, in quei luoghi molte case sono di 10-12 proprietari che non vogliono vendere la loro abitazione, la lasciano crollare, quindi è quasi impossibile subentrare e creare una piccola comunità, ecco. È un problema. E com'è per lui questa doppia vita, al lavoro da una parte e poi il resto della giornata da un'altra? E lui la vive come una sorta di obbligo, di schiavitù, cioè lui non andare a lavorare in fabbrica per lui significa semplicemente avere dei soldi per mantenersi e poter fare quello che gli piace, perché comunque più o meno lui alleva gli animali e coltiva, ma questa attività va praticamente in perdita, ecco. Quindi è più la sua passione, però tramite il lavoro in fabbrica riesce a lavorare anche sotto questo aspetto, diciamo, più agricolo. E senza lavoro in fabbrica comunque non potrebbe mantenersi neanche, cioè, penso, la macchina, il telefono, qualsiasi tipo di spesa. Però lui la vive come un modo per riuscire a sopravvivere, ecco, e a fare quello che gli piace. Quindi ha 2 lavori, praticamente lavora 16 ore al giorno. Senti, anche rispetto agli altri lavori, ad altri documentari di cui abbiamo parlato, mi sembra un destino comune quello delle comunità montane che si spopolano. Sì, beh, diciamo che è un processo che è iniziato negli anni 60, a Cuneo soprattutto c'è stata la Michelin, che ha messo una fabbrica molto grande perché aveva a disposizione sulle montagne un bacino enorme. Di persone non politicizzate, che era molto comodo. C'è da dire anche che se le persone hanno abbandonato la montagna è perché non si viveva bene in montagna, c'è una storia di miseria, di tribolazioni senza fine, quindi c'è anche un motivo storico, quindi si sono spopolate. Però adesso tecnologia, insomma, più fondi, più tutto, si potrebbe, secondo me, tentare un ripopolamento, questo sì. Però non è interesse della politica, almeno, cioè, che ne so, non portano neanche la DSL nei comuni di montagna, voglio dire, perché non conviene, però insomma e da lì si capisce quali politiche ha in mente. Capito. Senti, cronaca di una vita semplice, che futuro avrà? Allora, per il momento la distribuzione su TV non è prevista, perché abbiamo provato a fare, a attivare qualche contatto, ma non, il film probabilmente non interessa, cioè o non è di un formato che, non so se conoscete la situazione del documentario in Italia, è molto molto critica, nel senso, sì, ad esempio Rai 3 da 16 documentari all'anno su Doc 3 e c'è molto poco spazio, però abbiamo iscritto a numerosi festival nazionali e internazionali ed è stato selezionato e prossimamente uscirà nei festival, e poi faremo delle proiezioni ad hoc in manifestazioni che, come la scorsa settimana in Vallestura, manifestazioni che parlano del futuro della montagna. Poi io di solito dopo, insomma, un anno barra due, dipende come va il film, lo lascio libero in rete di poterlo visionare, quindi sintonizzandosi sul sito di Cosmochi, se uno poi vorrà vederlo, oppure se vuole il DVD io glielo posso spedire contattandoci, ecco. Benissimo. Però tra poco lo mettiamo libero online, ecco. Benissimo. Fabio, è stato un piacere, io ti saluto, ci sentiamo per le prossime novità. Va bene, grazie mille, grazie a voi. A presto, ciao. Fabio Gianotti, regista del documentario Cronaca di una vita semplice. Visionari su Radio Onda Rossa, abbiamo ancora un po' di spazio, abbiamo anche altri ospiti, considerato anche il fatto che questa settimana e probabilmente anche per diverse prossime settimane la carovana Teatro Voix Valle non andrà in onda. Antonio Martino, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ciao a tutti di Onda Rossa. Questa volta per parlare del tuo documentario Quello che resta. Antonio, che storia è questa? Beh, Quello che resta è un documentario appunto su quello che resta dopo una guerra sanguinaria e fratricida come quella della guerra nei Balcani, ecco. Io ritorno dopo a 20 anni precisi dalla fine del conflitto, soprattutto in Bosnia, e trovo delle schegge, delle tracce non palesi sempre, a volte nascoste, a volte più prepotenti, a volte più morbide, ma tracce profonde di una grande sofferenza, di una grande questione irrisolta che è la loro guerra, e tracce anche che possono farci riflettere sul presente, quello che sta succedendo oggi in Ucraina, io vengo proprio da lì, assomiglia moltissimo e pericolosamente a quello che successe per esempio nei Balcani. Dicevi di una guerra irrisolta e quindi una miccia potrebbe riaccendersi anche in un futuro prossimo? Beh sì, sicuramente quando queste società sono stressate da una grande crisi, dalla mancanza di opportunità, dalla mancanza di possibilità di evolversi e di crescere, ed è proprio in un contesto del genere che all'epoca nacque, cioè prese fuoco la paglia che poi si trasformò in grande fuoco di guerra, e l'ex Jugoslavia si smembrava. Passava da una situazione sociale ed economica di tutto rispetto, diciamo che in ex Jugoslavia, nella Jugoslavia di Tito, si viveva più o meno bene, loro erano favoriti a livello politico perché la Jugoslavia rappresentava una zona cuscinetto tra l'impero sovietico e l'impero, diciamo, dell'Occidente americano. Ma con la caduta e lo sfaldamento arrivò un ribaltamento delle condizioni economiche, quindi povertà, quindi degrado e questioni che prese poi, come dire, al balzo dai politici di turno che volevano la guerra, furono delle scuse validissime. Quindi quando la gente ha fame, povera e soprattutto come era allora la Bosnia, non aveva da mangiare, tutto può accadere, anche una guerra. Senti, 20 anni dopo, come mai questa decisione di ripercorrere quegli eventi? Guarda, il conflitto dei Balcani in quello bosniaco è la guerra della mia generazione. Sì. Ci sono generazioni che hanno la guerra della Palestina nel cuore, generazioni che hanno avuto il Vietnam. La mia generazione ha avuto i Balcani. Balcani che poi per la prima volta in TV venivano descritti come dire, minuziosamente, quindi c'era ogni giorno, mi ricordo nel 93, un'ora di live di bombardamenti e noi si assisteva sterrefatti, quindi è stata, come dire, la guerra della mia generazione. Io sono già stato a Pančevo, che è stata, come dire, è una città invece che sta dall'altra parte, nella Serbia. E, come dire, la curiosità di andare a spulciare in Bosnia proprio in vista di questi numerosi conflitti che stanno prendendo fuoco intorno all'Europa, e poi si è abbinato anche un interesse da parte della ONG che aveva in coste, che aveva dei progetti in loco, e poi risultava praticamente l'anno scorso risultava il ventennale della fine del no, 2014, quest'anno, della fine del conflitto bosniaco, per poi arrivare nel 95 agli accordi che fecero con Clinton. Nel 2015, quindi l'anno prossimo, ricadrà invece il decennale della costruzione del ponte, che è stato il simbolo di questa città. Devo dire, un ponte che è stato ricostruito tra le parti fisicamente, ma non è stato ricostruito tra le parti a livello emotivo, spirituale, a livello umano. Mm-hmm. Questo è, come dire, è chiaro, nonostante si sia fatto di tutto per pulire, come dire, le tracce di un passato disastroso, restano ancora, poi ritorniamo sempre al titolo di questo film, restano ancora tracce indelebili che ci riportano al passato. Mm-hmm. Quindi ecco le motivazioni per le quali mi sono interessato di nuovo alla Bosnia. Antonio, come vivono oggi i protagonisti del tuo lavoro? Allora, sono diversi i protagonisti, alcuni dei quali stanno anche molto male. Tra i protagonisti c'è una figura, come dire, fuori da tutti gli schemi, è un ragazzo che oggi ha 43 anni, 20 anni fa ne aveva 23 ed era giovanissimo. Visibilmente ha subito uno shock dopo la fucilazione di tutta la sua famiglia con sua moglie, e lui, io penso, immagino sia schizofrenico, vive una, come dire, una seconda vita. Lui è ancora in guerra, vive fuori per strada, ha tutto il suo equipaggiamento da guerra tranne le armi, ovviamente. Lui sta male, c'è la speranza del futuro, c'è un bambino che oggi non sta benissimo, ma si spera in una Bosnia più positiva. C'è un adolescente che vuole far qualcosa per la società civile, quindi per loro c'è speranza, ma per il resto dei protagonisti resta una grande tristezza, e quindi vivono male, e resta anche una sorta di delusione, di rabbia, perché hanno capito probabilmente molti dei miei protagonisti l'assurdità della guerra, l'assurdità che ognuno di loro hanno compiuto per portare avanti o risolvere, insomma, questo conflitto, per, come dire, svilupparlo, poi dirlo. Quindi vivono, si può dire che vivono su un ponte, ecco, per fare un'altra metafora, vivono su un ponte sospesi tra un futuro che non si conosce per i loro figli e un passato che a volte ci si vergogna pure a raccontare, ecco. Senti, si trattò di un drammatico conflitto su base etnica. Ecco, quelle etnie oggi come vivono anche in relazione l'una all'altra? Male, male, molto male. Esiste ancora una netta separazione, soprattutto nei centri di potere, che poi, come dire, gestiscono questa cosa e trasportano questa cosa sulla popolazione. Molte delle persone, delle varie etnie, si può dire la maggioranza, hanno capito che è stata una cosa assurda, ma i centri di potere delle varie fazioni invece continuano a usare come dire, queste tensioni ai fini politici. Quindi esiste un fortissimo centro di potere, come dire, con a capo la Chiesa Cattolica, che continua a costruire croci e cattedrali, quindi a testimoniare prepotentemente la loro presenza sul territorio. Questa cosa per esempio è schiacciante ed è spiegata benissimo con l'ultima immagine del mio film, che svela una croce di quasi 45 metri messa a guardia della città. E questa è per molti una provocazione che si accetta, che con rabbia, seppur con rabbia o con storcendo il naso. Ma quando i centri di potere decidono e vogliono, riescono quindi a facilmente oggi a rinnescare una miccia, perché esiste molta tensione tra le parti, esiste incomprensione ed esistono le due versioni, anche se ti ripeto, nel cuore, nell'anima c'è una piccola consapevolezza, ma non è facile quello che mi hanno fatto capire i miei viaggi, che le relazioni tra le persone, quando i contesti non sono favorevoli, non sono facili, diventano più pericolosi, i conflitti tra persone diventano più pericolosi dei conflitti tra ideologie o addirittura tra armi a volte. Quindi questo ho capito, non è, a volte ci appaiono come cose assurde quello che succede in Palestina, quello che succede oggi in Ucraina, quello che è successo in Bosnia. Se ti cali nel territorio e decodifichi i loro linguaggi e i loro stili di vita, capisci che le cose in alcune parti del mondo sono complesse, ecco. Antonio, è stato il tuo documentario presentato al Salina Doc Fest e poi? Che poi succederà? Io sicuramente andrò nel cinema dell'Emilia Romagna intorno a un'iniziativa che si chiama Doc in Tour. È già stato a Genova Film Festival, dove ha vinto un premio, il premio della critica, e basta, e si spera che girerà, se non altro ti ripeto, perché è un'esperienza che appartiene al passato, ma che ha dei valori educativi assolutamente necessari oggi nel presente. Faccio riferimento ovviamente ai tanti Balcani. Oggi si usa spesso dire: in Siria vogliono fare una balcanizzazione, in Libia una balcanizzazione, quindi questo conflitto, questo modello di conflitto è purtroppo diventato esempio per i diversi conflitti che oggi ci, quindi è stata la madre di questi i conflitti, e spero che in qualche modo possano passare, se non dico delle informazioni, ma delle emozioni che ci riportano poi o ci dovrebbero riportare a capire quanto la vita umana può, gli esseri umani si trovano, quanto possono vivere male a volte se non sono in armonia con quello che li circonda. Benissimo, Antonio, io ti ringrazio, un saluto e a risentirci presto. Va bene, grazie mille, vi seguo sempre. Grande. Ciao. A presto, ciao Antonio. Antonio Martino, regista del documentario Quello che resta, su Radio Onda Rossa, visto ci segue sempre. In collegamento con Pierfrancesco Aiello di PDA Films sulla distribuzione di Chi è Diani Crystal, che è in uscita in sala oggi, giovedì 20 novembre. Pierfrancesco, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, salve, siamo qui, siamo pronti. Siamo pronti. Grazie dell'invito, insomma c'è in uscita questo film, appunto, Diani Crystal, film documentario. Sì. Con protagonista, appunto, Gael García Bernal. Ed è un film documentario straordinario, insomma, sulla storia degli immigrati che cercano di passare la frontiera dal Messico all'America. Questo è, il documentario, è stato a Sundance, poi è stato l'anno scorso al Festival di Roma anche, è stato a tantissimi altri festival e adesso finalmente lo facciamo uscire in sala, appunto oggi c'è l'uscita. uno degli elementi che fa più impressione è vedere anche fisicamente questa lunga barriera che separa i due stadi. Esatto, esatto, infatti c'è questa barriera di, che è impressionante, c'è come il muro di Berlino che però insomma attraversa tutto il Nuovo Messico, insomma è lunghissimo, dove la cosa strana in pratica è che in realtà l'America ha bisogno di questi immigrati, no? Perché diciamo sono tutti immigrati che lavorano poi, no? Clandestinamente, perché diciamo principalmente lavorano nella parte diciamo California o altri stati, eppure lo Stato americano li combatte per non farli entrare, ma poi in realtà hanno proprio bisogno di queste figure. Quindi c'è una contraddizione, cioè questa cosa che riescono a bloccare, vogliono bloccare come una facciata così, e poi di fatto invece in realtà sono persone che servono. Insomma questo è un problema diciamo dell'immigrazione, no, in generale un pochettino, perché poi alla fine come anche in Italia è un discorso insomma che a volte molti immigrati appunto lavorano, ormai in Italia diciamo sono parte integrante, no, del sistema produttivo, ci sono tanti lavori che in Italia nessuno vuole fare, e che se non ci fossero penso gli immigrati sarebbe un disastro. Mm-hmm. A questo periodo diciamo che è un problema di lavoro generale. Comunque il documentario film è veramente toccante, molto fatto benissimo, dove Gael García Bernal si introduce in un gruppo di migranti e fa vedere tutto il percorso, diciamo che cosa deve fare un migrante per arrivare negli Stati Uniti, chiaramente come noi magari c'è più vicino la vicenda dei migranti del Nord Africa, questi migranti devono passare e subire qualsiasi tipo di violenza cosa, pur di arrivare alla fase finale insomma. Mm-hmm. E quindi insomma è come tutte le storie dei migranti, sono storie molto difficili. Sì. Pierfrancesco, come, per quello che ne sai, come ha avuto origine il progetto? Il progetto ha avuto origine perché insomma Gael García Bernal diciamo che è un attore molto, fa tantissime cose ed è messicano di origine, e quindi lui è molto attivo anche con Amnesty International, e quindi gli è venuto penso naturale questa cosa di creare questo film. In realtà lui è sia quasi co-regista insieme a Mark Silver e anche in realtà è produttore del film. Mm-hmm. Cioè, quindi diciamo che si è coinvolto in maniera quasi totale in questo progetto, e lo ha fatto proprio perché lui diciamo essendo un personaggio in Messico molto famoso cerca di aiutare, insomma spesso lui lavora appunto con Amnesty International e quindi spesso cerca di aiutare tutte queste situazioni di disagio insomma, quindi mm-hmm. è una persona che sta sempre avanti, è una persona molto attiva. Io l'ho conosciuto, è un personaggio straordinario perché fa 2000 cose, ma insomma molte lo fa per, a volte senza soldi, per beneficenza, insomma una persona molto in gamba. Un altro degli elementi critici del film è il numero dei morti, che nel corso dei decenni, nonostante questo muro di separazione, nonostante le politiche più repressive di entrambi le forze dell'ordine degli Stati Uniti e del Messico, aumentano i morti e aumentano i morti ignoti. Sì, morti ignoti perché loro spesso, questi migranti spesso vengono ricacciati dalla polizia e quindi loro viaggiano sempre senza documenti, viaggiando appunto, questo film appunto si chiama Chi è Diane Crista, la storia in pratica è, trovano questo cadavere dove c'è un tatuaggio sul petto che c'è scritto Diane Crista, e quindi c'è una ricerca da questo elemento per cercare di capire chi è la vera entità di questa persona per ridare il corpo. Quindi la polizia americana quando trova i cadaveri diciamo fa tutta una serie di fotografie, analisi, cose per fare delle schede che semmai in un futuro possa ritrovare qualcuno con una sua identità e quindi una sua tomba diciamo. E quindi c'è questa ricerca con questo indizio di questo tatuaggio e c'è tutta la ricerca di a chi appartiene. Questo è un migrante che è morto realmente, cioè non è una cosa di finzione, e alla fine insomma poi chi va a vedere il film si renderà conto, ma è veramente toccante come tipo di, come è descritto, come è narrato, come è molto poetico. Sì, sì. Oh, ecco, nel corso degli anni anche questo lato, chiamiamolo così, umanitario, si è accresciuto, questa struttura che cerca di identificare i corpi senza nome, si è sviluppata. Però uno dei protagonisti, che appunto lavora in questa struttura, si augura che comunque il governo statunitense prenda coscienza che questa è una forza di cui il paese ha bisogno. Sicuramente, ma questo è nato tutto negli ultimi 15 anni, diciamo. Prima non c'avevano questo problema, diciamo che la frontiera era abbastanza aperta ed era, non c'era stato questo problema. Poi 15 anni fa hanno iniziato questa repressione, appunto, ripeto, un po' che non si capisce per quale motivo, ma solo una cosa di fatto esteriore. E poi a un certo punto, prima appunto scrivevo il fatto che loro non portano documenti, che spesso vengono ricacciati e loro ci riprovano a rientrare, no? Quindi se un giorno dovessero portare una loro identità vera, un documento, qualsiasi cosa, poi diventerebbe difficile per loro realmente rientrare, no? Quindi per questo spesso sono cadaveri senza nome. Comunque non c'è in questo momento un'apertura da parte del governo americano per alleggerire questa situazione, che di fatto è un po' così, è stata decretata dall'alto, delle logiche di quelle che potrebbero essere nella realtà, e di fatto tutto il territorio sempre no, perché il lavoro più simile, ma insomma sempre lì che... Ti sento che vai e vieni, Pier Francesco. Sì, purtroppo sono, come ti dicevo. Ok, sono... adesso ti sento meglio. In chiusura, esce oggi in sala, in quante copie il film? Guarda, abbiamo iniziato oggi con 3 copie, essendo un documentario, diciamo, alle sue, diciamo, difficoltà, ma nello stesso tempo volevamo iniziare con una strategia di una distribuzione molto attenta. Comunque iniziamo a Roma, a Cinemaquila, poi a Milano e Torino. E poi nella prossima settimana già abbiamo altre 20-25 sale, e quindi poi appena abbiamo la concretezza lunedì lo metteremo sui siti, su MyMovie, insomma su tutti i siti si saprà dove esce. Però è chiaro che noi siamo sicuri che è un film che riuscirà ad avere il suo impatto col pubblico, e penso che c'è possibilità di vederlo, insomma, per molto tempo, chiaramente sempre con una distribuzione di quelle che sono molto di cinema di qualità. E come sapete voi, insomma, la distribuzione in questo momento su questo genere di prodotto c'è una grande difficoltà, anche se poi in realtà ci sono molte sale sparse in Italia, sale magari meno che fanno parte del circuito delle multisale, no? Sì. Però, insomma, sicuramente avrà una diffusione. Sì. Benissimo, io ti abbraccio, Pier Francesco, ci sentiamo per le prossime cose. Ti ringrazio, buona trasmissione, tante cose, tanti saluti. Ciao, a presto. Pier Francesco Aiello di PFA Films sulla distribuzione di Chi è Diane Crystal, in uscita in sala oggi giovedì 20 novembre. Ed eccoci con Emanuela Martini, direttrice della 32esima edizione del Torino Film Festival, da domani 21 fino al 29 novembre. Emanuela, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. 32esima edizione, e cosa ci aspettiamo quest'anno? Vi aspettate un sacco di film, cioè ci sono 197 film, compresi ovviamente i cortometraggi e i film della retrospettiva, del secondo anno di retrospettiva New Hollywood, che sono 33, e poi ci sono le, direi, abbastanza consuete sezioni del Torino Film Festival degli ultimi anni: concorso internazionale lungometraggi dedicato a opere prime e seconde, concorso documentari italiani, concorso documentari internazionali, concorso cortometraggi, poi c'è la mega sezione festa mobile che comprende tutto il fuori concorso, dai film più attesi, tipo Magic in the Moonlight, cioè il nuovo film di Woody Allen, ma anche The Drop, che è un bellissimo film americano con Tom Hardy e James Gandolfini e tanti altri, e anche piccoli film, visto che più di 15 in concorso non ne possiamo mettere, perché la giuria deve avere anche il tempo, oltre che di vederli in 8 giorni, anche di dormire un po' di ore e mangiare e soprattutto discutere. Gli altri che ci piacciono li mettiamo fuori concorso. Mm-hmm. Poi sezione After Hours, che come dice il titolo è dedicata a futuri o già accreditati cult movie, i generi che vanno di solito in notturna: horror, noir, thriller e le eccentricità, e poi tante altre cose, ho dimenticato molte cose. Senti, uno dei festival più longevi e insomma più importanti del nostro paese, nel corso degli anni che tipo di personalità ha sviluppato il Torino Film Festival? Ma il Torino Film Festival fortunatamente ha un'identità molto forte che si è mantenuta soprattutto nel corso degli anni, perché è nato come Festival Cinema Giovani e fortunatamente, ovviamente crescendo, aumentando le sezioni, variandole anche molto, ha comunque conservato come identità specifica quella della ricerca di nuovi talenti, della scoperta, della riscoperta di pezzi dimenticati di storia del cinema o di talenti che per esempio sono già anche avanti con la carriera e però in Italia sono poco noti. Per esempio quest'anno dentro After Hours abbiamo un giovane horrorista statunitense che si chiama Jim Mickel, che è un pochino esploso quest'anno alla Kenzel di Cannes con Cold in July, un thriller commedia tratto da un romanzo di Joe Lansdale, che però ha già girato 4 horror precedenti e infatti che in Italia non sono mai arrivati, e c'è l'omaggio dedicato a Jim Mickel. In passato abbiamo fatto Nicholas Winding Refn prima che diventasse noto. Quindi l'identità è quella comunque ancora di cercare il cinema anche insolito. Infatti c'è per esempio la sezione sperimentale Onde. Sì, sì, sì. Considerate le varie sezioni, anche la grossa mole di lavori che proporrete, quali sono a tuo avviso gli elementi più caratterizzanti di questa edizione? Secondo me c'è un elemento fondamentale che continuo a dire a tutti e che dico soprattutto al pubblico: abbiate coraggio di rischiare, osate, anche il pubblico deve osare. Sì, sì. Per cui se restate fuori, appunto, cito quello che attendono tutti di più, se restate fuori dal nuovo film di Woody Allen, se restate fuori dal doppio film che è The Disappearance of Eleanor Rigby, che a Cannes si è visto Monco, di cui noi facciamo invece le due parti, parte prima e parte seconda, azzardate, andate nella sala di fianco dove magari riuscite a entrare, c'è qualcosa che assolutamente non avete mai sentito nominare e magari vi piace di più del film che invece avreste visto. Senti, sugli incontri con gli autori ci sono alcuni che vuoi particolarmente sottolineare? Beh, c'è Dario Argento che presenta la versione restaurata di Profondo Rosso, che non è un incontro da poco. C'è Giulio Questi, ecco, a proposito di riscoprire i talenti dimenticati, Giulio Questi è un signore che tra l'altro ha vinto un mese fa il premio Chiara per la letteratura col suo libro in cui racconta di quando era partigiano, che ha inventato, che è stato molto importante nell'invenzione dei generi alla fine degli anni 60, primi 70, quando anche in Italia si facevano generi che non fossero solo la commedia, e noi gli dedichiamo la personale a Giulio Questi. E c'è il Gran Premio Torino, che è un altro abbastanza eccentrico, cioè Julian Temple, che è un grandissimo del documentario musicale, è in realtà l'autore che ha elaborato la lingua del video musicale prima di tutto, che prima di lui era semplicemente un collage voce, immagini, lui invece ne ha fatto veramente un linguaggio espressivo, che ha fatto degli eccentrici film di finzione, tra cui un vero musical che è Absolute Beginners della fine degli anni 70, ha lavorato tantissimo sul scena punk, essendo amico dei Sex Pistols, ha fatto tre bellissimi film sui Sex Pistols e uno di questi, The Fear and the Fury, verrà presentato al momento della consegna del premio. E poi da buon britannico eccentrico ha poi sviluppato una lingua del documentario, non solo musicale, che è veramente un linguaggio poetico, cioè mischia immagini di repertorio, riprese recenti, pezzi di concerti, pezzi di strada, la gente comune, i mercati, eccetera, e ti dà veramente l'idea di una cultura, di una città, di un po' della storia, cioè si capisce di più del tacerismo vedendo i suoi film su Sex Pistols che guardando i cinegiornali, per capirci, e lui viene per la consegna del Gran Premio Torino. E poi c'è Eddie Redmayne, per esempio. Eddie Redmayne è un giovanissimo attore inglese, credo che abbia 27 anni più o meno, che finora ha fatto parti piccole e che sta scoppiando quest'anno perché interpreta The Theory of Everything, interpreta la parte di Stephen Hawking, l'astrofisico, lungo 25 anni della sua vita, cioè da quando stava finendo l'università a Cambridge e si fidanzò con quella che è stata poi sua moglie per 25 anni, stava diventando il grande Stephen Hawking e si manifestava però anche la sua malattia, è una parte difficilissima ovviamente, e soprattutto in un film che è anche una commedia, anzi direi che molto più lieve di quello che uno si immagina, e sarà presente a Torino anche Eddie Redmayne. Poi c'è Michele Placido che presenta un suo film tratto da una piccola pièce teatrale, c'è un sacco di gente. Senti, in conclusione, Emanuela, tornando al cinema italiano emergente, cosa sta esprimendo a livello di fiction e di documentario? Beh, guarda, sono estremamente legati, cioè a Torino, che poi anzi Torino a questo punto di vista è stata anticipatrice perché alcuni anni fa, direi probabilmente 5 o 6 anni fa, il primo premio del Festival di Torino della sezione lungometraggio di finzione è stato vinto dalla Bocca del Lupo, che era uno di quei segnali del cinema che sta al confine proprio sul limitare tra documentario e finzione, che non puoi dire né che è un documentario né che è un film di finzione. I due film italiani che abbiamo in concorso quest'anno si muovono nella stessa direzione. A Venezia hanno vinto dei film che andavano nella stessa direzione, per cui in questo momento secondo me il cinema italiano, quello dei più giovani, perché appunto io continuo a parlare di esordienti sostanzialmente, che hanno più voglia di rischiare, che hanno più voglia di osare, che non se la sentono di fare la commedia, appunto, probabilmente in questo linguaggio riescono a muoversi meglio. Le scoperte credo che vengano da lì, poi passano tranquillamente alla pura finzione, ai budget alti. Garrone ha cominciato così, per dire, uno che adesso giustamente è passato a un altro tipo di budget. Emanuela, io ti do appuntamento, come siamo soliti fare ogni anno tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio, con le cinquine dei film preferiti tra quelli usciti in sala. Un abbraccio, un in bocca al lupo per questa edizione del Festival di Torino. Ne posso dire già uno, Boyhood, cosa ci sarà nella cinquina di Linklater? Benissimo, allora già abbiamo un'anticipazione. Sinceramente. Un abbraccio. Grazie. In bocca al lupo, ciao Emanuela. Ciao, ciao Creppi, ciao. Ciao, ciao. Bene, è tutto per Visionari di questa settimana. Ci diamo appuntamento a giovedì della prossima, sempre dalle 14 alle 15, anche se tendiamo un po' a dilatarci ogni volta, ma sono sempre tanti gli ospiti. Per quanto riguarda le informazioni sulla scaletta di quest'oggi, le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari. Idem per quanto riguarda Facebook, c'è la pagina Visionari. Per comunicare con noi, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Potete seguirci in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza, ma anche poi in podcast sul sito internet trovate tutti gli indirizzi, e anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. sulla homepage c'è l'opzione ascolta la diretta.